Entrammo nella vita dalla porta sbagliata, in un tempo vigliacco, con la faccia sudata ci sentimmo chiamare, sempre più forte ci sentimmo morire, ma non era la morte, la vita ridendo ci prese per mano, ci levò le catene per portarci lontano, ma sentendo parlare di donne e di vino, di un amore bastardo che ammazzava un bambino, e di vecchi mercanti e di rate pagate e di fabbriche nuove e di orecchie affamate, e pregammo la vita di non farci morire se non c'era un tramonto da poter ricordare. Il tramonto già c'era, era notte da un pezzo, ed il sole nascendo ci negava il disprezzo, ma sentendo parlare di una donna allo specchio, di un ragazzo a 20 anni che moriva da vecchio, e di un vecchio ricordo di 20 anni passati, di occasioni mancate e di cieli perduti, e scoprimmo l'amore e scoprimmo la strada, difendemmo l'onore col sorriso e la spada, scordammo la casa e il suo caldo com'era per il caldo più freddo di una fredda galera, e vincemmo la notte ascoltando il tramonto, e vincemmo soltanto cantando più forte. Ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti assassini. E ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti assassini. Ora siamo lontani, siamo tutti vicini, e lanciamo nel cielo i nostri canti bambini.